clemente con chi hai di fronte a te perché sta combattendo una battaglia di cui tu non sai nulla. Insomma, è una frase anche detta, anche forse troppe volte, però è la verità. Ognuno di noi si batte per qualcosa, si batte per se stesso soprattutto, e in tutte le puntate, ormai quasi 1000 del Falco e il Gabbiano, in qualche modo abbiamo incontrato persone che si sono battute per qualcosa, in genere di positivo, a volte invece anche di terribile, e ci sono delle caratteristiche che fanno l'essere umano e che in qualche modo possono essere un motore, e lo abbiamo visto: la rabbia, la sconfitta, il desiderio di rivalsa e in pratica la capacità di cambiare, di adattarsi, di rimettere in questione il proprio destino, di cercare quel colpo d'ala che possa far tornare tutto in discussione, reinventare l'esistenza. In fondo, forse la vita e trasformazione. E la storia di oggi contiene tutti gli elementi di cui abbiamo appena parlato. Oggi parleremo di una persona considerata uno dei più grandi scienziati esperti di intelligenza artificiale, un'imprenditrice, in realtà all'inizio della storia avrei detto un imprenditore, ma un'imprenditrice che ha fondato un'azienda dove la neuroscienza, l'apprendimento automatico sono stati studiati per massimizzare i risultati di studenti, di impiegati, di operai. Una persona che nel suo tempo libero ha messo a punto un sistema, per esempio, per gestire al meglio i livelli di glucosio del figlio affetto da diabete, o un'app per prevenire gli attacchi di bipolarismo. Insomma, stiamo parlando di una bella mente, però la storia è ancora più interessante se consideriamo che stiamo parlando di una donna che nasce uomo, che attraversa la sofferenza, attraversa la depressione, combatte, tenta il suicidio prima di diventare quello che è oggi. Cioè una persona che ha cercato disperatamente il suo senso, lo scopo della vita, che in questo caso è andare anche oltre la felicità, un modo per servire il mondo. Oggi parliamo di Vivienne Ming. Quello che ho imparato in tutto questo procedimento è che se ti metti al servizio del tuo scopo, se cerchi di rendere il mondo migliore, il bene ti ritorna indietro. La felicità, il successo, tutto ciò che hai sempre sperato che fosse la tua vita, ti arriva non dal cercarlo direttamente, ma ti arriva dal cercare di renderti una persona migliore. Questa è l'unica cosa che puoi fare per rendere questo mondo migliore. That is the one thing you can do to make this a better world. Vivienne Ming, probabilmente un nome che non vi dirà niente, un nerd della Silicon Valley, un luogo che per noi rimane lontano, a volte anche un po' mitico, no? Pieno di suggestioni. Giornali famosi come il Financial Times, l'Huffington Post le hanno fatto lunghe interviste, ha tenuto centinaia di conferenze in tutto il mondo. Forse il campo di interesse suo sembra lontano dalla vita di tutti noi, invece non è così. Intanto la sua storia è importante perché racconta come sia possibile per ognuno combattere i propri demoni e ricostruirsi una vita lontano dall'inferno, che a volte è insito nella vita. Sartre diceva: l'inferno sono gli altri, no? E Vivienne Ming ci dimostra che anche quando tutto sembra perduto, bisogna andare avanti, bisogna credere nella propria trasformazione, e elevarsi e credere nella propria redenzione. Credo che la cosa più incredibile che abbia mai fatto è che per 10 anni, nonostante fossi profondamente infelice, ho tenuto duro. E spero che ognuno di voi trovi quella cosa, quello scopo che vi spinga ad andare avanti. Dimentichiamoci per adesso il nome Vivienne Ming, perché arriverà molto dopo, e partiamo dal nostro protagonista, Ivan Campbell Smith, nato nel 72 a Monterey, in California, un bambino privilegiato, maschio, bianco, di una famiglia della buona borghesia californiana. Il padre è un medico conosciuto in città, è un uomo colto e come spesso accade in questi casi vorrebbe, in qualche modo si è già prefigurato il futuro per il proprio figlio, dovrebbe essere il suo erede intellettuale. Il figlio è dotato, però è un po' timido, dietro alle lentiggini è un ragazzino, trascorre ore a parlare di tante cose col padre, e il padre vuole trasmettergli il suo sistema di valori, e l'errore che un po' tutti, volenti o nolenti, facciamo. Ma nonostante tutto, questo padre non riesce, non può capire cosa si sta nascondendo dietro questo sguardo un po' triste di questo bambino, di questo ragazzino. I grew up. Sono cresciuta nei pascoli del cielo. O almeno è così che John Steinbeck chiamava questa bella vallata nel centro della California, che era in effetti bella tanto quanto il titolo del libro suggerisce. E ho avuto dei genitori meravigliosi e una vita bellissima, ma molto, molto presto. Le cose iniziarono a cadere a pezzi. È una storia comune a molti, il tempo passa e questo ragazzino Ivan si sente a disagio nella sua pelle, nel suo corpo, prova un malessere senza nome, ma ovviamente è tutta una parte di sé che lui reprime, che nasconde, non ascolta quelle voci, interpreta la parte del bravo ragazzo americano sportivo, gioca a football americano, che è uno sport insomma da duri, di contatto. Il padre gli ha consigliato questo sport, forse per rafforzarlo, forse per inspessire la corazza che capisce sia un po' fragile. Poi nel 1984 c'è un giorno particolare, Ivan ha 12 anni, è in campo, sta per iniziare una partita, i compagni si riscaldano, corrono, si urtano, ripartono e a un certo punto lui li guarda. Il suo cervello registra azioni e sentimenti strani, sta succedendo qualcosa. Ero fuori campo e in quell'istante ho capito che stavo giocando per la squadra sbagliata. In verità, non volevo neanche essere un ragazzo. Ivan non capisce i giochi dei ragazzi, il loro atteggiamento non è il suo, battute grossolane, la rozzezza, l'aggressività, l'eccessiva competizione, insomma tutto quello che fa parte del cervello maschile, forse anche tutte le cose delle quali noi maschi dovremmo dare meno fieri. Insomma, lui si sente diverso, vorrebbe vivere la vita di qualcun altro, non capisce bene di chi. Comprendere una cosa ovviamente non vuol dire avere risolto i problemi, anzi è l'inizio dei problemi. Quando lui arriva al liceo è a un punto nel quale si sente veramente molto infelice. Va bene a scuola, ma sente la pressione, sente le aspettative nei suoi confronti che sono altissime. Lui ha paura di disattenderle. E poi c'è anche questo terribile segreto, l'idea di non essere quello che appare all'esterno. E il senso di infelicità, di solitudine sta diventando schiacciante. Al liceo Ivan Smith fa quello che ci si aspetta da lui, il padre lo sappiamo, vede in questo figlio bello e brillante il suo erede naturale e Ivan vuole compiacerlo, si comporta esattamente come gli altri ragazzi, come bisognerebbe comportarsi, ovviamente ci sto mettendo le virgolette. È bravo a scuola, soprattutto nelle materie scientifiche, matematica che è il suo forte, esce con le ragazze, si fidanza con una sua amica d'infanzia, vive come un classico adolescente americano, anche cari amici, ha un fratello minore Eric e con lui va molto d'accordo e lo difende quando c'è bisogno. Ivan non era il tipo che avresti chiamato effeminato, ma non era neanche il genere di fratello maggiore che idolatri perché parla di ragazze e di feste. E ora capisco anche perché fosse così. Ma è stato il mio esempio per altri motivi. Se qualcuno mi prendeva in giro, era lui a difendermi. Era lì per me, quando avevo bisogno di lui. Però il corpo di Ivan racconta un'altra storia. Lui soffre di disordini alimentari, soffre di insonnia. E anche a scuola, durante l'ultimo anno, cominciano a fiorare i segni che qualcosa sta cedendo. Questo studente perfetto perde i colpi. In classe è tra i migliori, ma a casa non riesce a fare i compiti, non riesce a rispondere ai test. Raggiunge la media per iscriversi all'Università della California. Però è evidente che tutta questa impalcatura potrebbe crollare da un momento all'altro. Lui spera che le cose possano cambiare al suo arrivo all'università. In realtà non è così, anzi, lontano dalla protezione familiare, lui è sempre più insicuro, comincia a non riuscire a dare gli esami. Insomma, in pratica trascorre 2 o 3 anni essenzialmente nascondendosi da tutti, e alla fine decide di abbandonare gli studi, e davanti a lui c'è solo questo futuro che diventa sempre più oscuro, sempre più incerto. A deep and profound self-hate. Sentivo un profondo odio verso me stessa, non solo del genere che ti deruba della felicità, ma dell'idea che tu possa fare qualcosa di buono nella tua vita. Mi sentivo intrappolata. E non si trattava solo di brutte sensazioni. Significava insonnia. Essere sveglia ogni mattina quando il sole saliva, solo perché non riuscivo ad addormentarmi, perché le mie notti le trascorrevo con questo pensiero costante, che ero una persona orribile. E la sola cosa che mi faceva stare bene era immaginare di venire picchiata, che qualcuno mi appiccasse il fuoco, che mi si ridicolizzasse, che mi si odiasse. Perché certamente tutti provavano le stesse cose che sentivo io, e mi cullavo in questi pensieri per ore, tutte le notti, per 20 anni. Ivan sa solo una cosa: non vuole tornare a casa, non vuole vedere la delusione dipinta sul volto dei suoi genitori, in particolare sul volto del padre. Non vuole ripagare l'amore che sa di avere ricevuto con il suo fallimento. E così per un po' gira per la zona attorno alla baia di Monterrey, poi i soldi finiscono e si ritrova a dormire nella sua auto. Insomma, a poco più di 20 anni è un clochard, è un barbone senza nessuna prospettiva. E poi arriva quella notte, arriva una notte terribile. Nel 1995, siamo in America, comprai una pistola e una notte ebbi un pensiero molto semplice. Non ho mai combinato niente di buono nella vita, e nonostante l'idea che bisogna essere felici, non lo sono e non lo sono mai stata. E non credo che mai lo sarò. Perché restare viva? Perché restare viva se non posso fare qualcosa di concreto per il mondo? Perché restare vivi se non si riesce a trovare la felicità in niente? È stata una notte lunghissima. Credo che nessuno sarà sorpreso sapendo che quella notte non mi sono suicidata, ma ci sono andata molto vicina. E la cosa che mi ha dato la forza di andare oltre è stata una frase di mio padre: vivi una vita utile. Una notte terribile, ma anche lo spartiacque fondamentale della sua vita, perché lì lui in qualche modo si sveglia dal suo incubo che era durato più di 20 anni, comincia a diventare propositivo, vuole vivere una vita utile, utile a se stesso, ma addirittura utile al mondo. Ecco, forse questa è la domanda che ci siamo posti all'inizio della puntata, cioè cosa ci rende utili, cosa ci rende umani. Ecco, dopo questa notte terribile, Ivan trova la sua risposta: vuole dare qualcosa al mondo. Non è poco, però in realtà è la risposta che in qualche modo dovremmo trovare tutti. Fare il meglio possibile con le proprie risorse può migliorare una piccola parte di questo mondo, e poi soprattutto fare qualcosa anche per gli altri, lasciare una traccia del nostro passaggio. E così trova finalmente un lavoro, una cosa piccola all'inizio, il manager di un allevamento di molluschi sull'orlo del fallimento. Insomma, può tornare a usare i numeri quantomeno. La monotonia del lavoro diventa una specie di terapia calmante, è un modo per iniziare a risalire la china. Peraltro si ricomincia a guadagnare qualche soldo, si può tornare a vivere in una vera casa, e questo piccolo lavoro gli serve per mettere da parte la cifra necessaria per tornare all'università. Eh sì, perché secondo lui questa è la prima condizione necessaria per poter dar vita a un progetto sostanzioso di esistenza. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia che come punto di arrivo avrà una neuroscienziata esperta di intelligenza artificiale. E qualcuno dirà: ma come, stavi parlando di un uomo? Sì, in realtà per ora noi stiamo raccontando la storia di Ivan Campbell Smith, un ragazzo americano che ha vissuto in un limbo di infelicità e di frustrazione per non essere stato in grado di ottemperare ai desideri del padre, e che adesso sta cominciando a dare dei colpi d'ala per organizzare il suo riscatto all'interno della società, ma soprattutto con se stesso. Il suo obiettivo è quello di non migliorare solo per sé, ma per il mondo che ci circonda. È un gesto di gratitudine per la terra, un segno del proprio passaggio, una traccia che si è vissuto. Insomma, tutto questo sta albergando nella mente di Evan Campbell Smith. Il padre aveva insegnato a lui queste cose: vivi una vita utile. Con questo monito in testa, lui comincia a organizzare il suo ritorno dall'inferno della depressione. Il primo passo è quello di tornare all'università. I thought, all right, I'm serving my purpose. Pensai, ok, devo portare a termine il mio obiettivo, ma parte del mio obiettivo è anche di fare in fretta. Quindi, che laurea posso prendere in un solo anno? Anzi, scusate, sono una snob. Che laurea scientifica posso prendere in un solo anno? Potevo scegliere fra matematica, economia e neuroscienze cognitive. Pensai, matematica? E cosa ci faccio con matematica? Così decisi di tirare una monetina, realmente, per decidere fra le altre due materie. Uscì testa e quindi neuroscienze. Neuroscienze. 1999, Vivien Ming, ma ancora non c'è Vivien Ming, ancora c'è Ivan. Lui torna all'università di San Diego, in un anno prende la laurea e poi si iscrive a una delle più prestigiose università americane per la specializzazione, e qui comincia a studiare l'intelligenza artificiale, un risultato che solo due anni prima sarebbe stato inimmaginabile. Questa volta va veramente forte, diventa uno degli studenti migliori del suo corso. Quando sono tornata per finire il mio corso, a differenza di quello che facevo prima, fui la migliore, tanto che il mio professore mi chiese se avessi voluto affiancarlo l'anno successivo, e poi mi ha raccomandato di lavorare in un posto chiamato Machine Perception Lab, dove costruivamo macchine in grado di imparare ad ascoltare e a vedere il mondo in piena autonomia. Però, come sentite anche dalla discrepanza del mio racconto, il racconto di un uomo e le testimonianze di una donna, insomma, capirete che siamo ancora lontani dal punto d'arrivo. Ivan si sente ancora infelice, sbagliato, la sua incredibile volontà di fare qualcosa di buono si scontra invece con la sua interiorità così tormentata. Lui sta lavorando duramente per ricucire i pezzi della sua vita, l'università, il successo nel mondo accademico, tutto bene, ma il suo disagio ovviamente non cambia. Lui adesso deve concentrarsi su qualcosa di diverso dalla felicità che ha conquistato fino a quel momento. Da un lato ha bisogno di fare qualcosa che abbia impatto forte sulla vita delle persone, e poi però c'è la sua zona d'ombra. A volte scopri che le cose di cui pensi di aver bisogno, il successo e la felicità, non vengono direttamente da te. Sono doni imprevedibili, che derivano non solo dal seguire la tua ispirazione, ma dal lavorare duramente e a lungo. Bisogna sapere andare oltre e comprendere la triste verità, e cioè che si può essere infelici per un po', ma che non si deve aspettare di non esserlo per fare le cose. A volte prima bisogna essere infelice e poi si capisce il perché. E poi accade una cosa inaspettata. Nel 2001 Ivan si innamora di una lei, una giovane laureata di Harvard, si chiama Norma Chang, lei è lì per un corso di psicologia, i due si fidanzano e vanno a vivere assieme. Apparentemente tutto funziona per il meglio, una coppia di ragazze brillanti, intelligenti, destinati a fare qualcosa di grande. E dentro però c'è sempre quel tarlo che sta divorando il nostro Ivan, tra un po' la nostra Vivienne. In una foto del 2004 che li ritrae assieme all'università, Norma sta guardando in macchina sorridente, mentre Ivan, vestito con questi pantaloni scuri, con una camicia scozzese, con i capelli rossi tagliati corti, lui sta fissando l'obiettivo senza sorriso, con una espressione un po' tirata, come se fosse seduto su una sedia scomoda. In realtà lui è seduto su un mondo scomodo. Nella primavera del 2005 lui decide di partecipare a un esperimento organizzato dalla sua facoltà. Spesso i professori o gli studenti vicini alla laurea coinvolgono amici per fare loro delle cavie. L'esperimento a cui si sottopone Ivan esamina l'effetto sulla lunga durata di farmaci anti-ansia. Insomma, bisogna prendere delle pillole senza sapere se sono delle pillole o delle finte pillole, dei placebo. Infatti Ivan è convinto di star prendendo solo del placebo. Al termine dell'esperimento il dottore gli rivela che in realtà lui stava prendendo un farmaco e gli chiede se si sono verificati dei fatti insoliti. In realtà qualcosa di insolito è accaduto, qualcosa che gli cambierà la vita per sempre. Era il 2005, stavamo per finire le nostre specializzazioni e in realtà era il giorno del mio 34esimo compleanno, il 19 ottobre, quando improvvisamente, senza alcuna avvisaglia, mi voltai verso la mia fidanzata e le dissi: «Vuoi sapere qual è il mio segreto inconfessabile? Vorrei essere una donna». Eh sì, forse era sotto sedativi Ivan, insomma è riuscito a fare questa rivelazione alla sua fidanzata proprio mentre stanno per infilarsi nel letto. Bene, colpo di scena, Norma, la fidanzata, non prova né rabbia né terrore, né senso di tradimento, né disperazione, insomma era proprio la donna per lui. Quella sera del 19 ottobre del 2005 comincia la terza vita di Ivan. La prima è stata la sua nascita anagrafica, la seconda la rinascita dopo la notte del tentato suicidio e adesso c'è la terza vita che sta per cominciare assecondando il suo segreto desiderio di sempre, quello di essere una donna. Però nel frattempo questa coppia particolare sta per sposarsi e Norma non capisce subito come deve fare per gestire questa rivelazione che Ivan le ha fatto. Forse per lei la parte più difficile è capire se la persona con cui è stata finora cesserà di piacerle nel momento in cui cambierà in maniera direi sostanziale il suo aspetto esterno, oppure se l'amore sarà talmente spirituale da rimanere immutato anche dopo una metamorfosi di questo genere. E Ivan nel frattempo è molto sicuro di quello che vuole. Vuole Norma a tutti i costi. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Siamo arrivati al punto cardine della nostra storia. Ivan Campbell Smith vuole diventare donna, ma vuole Norma con sé e sta aspettando di sapere se lei è disposta a continuare a vivere questa vita in due, così intima, così spirituale direi. La risposta arriva inconfondibile: devi provarci, è una cosa troppo importante per far finta di niente. Bene, l'anno dopo Norma e Ivan si sposano. Lui indossa ancora, forse per l'ultima volta, abiti maschili e indossa lo smoking. E intanto però in casa la coppia ha già iniziato a convivere con questa transizione, perché lui in casa indossa abiti femminili, si sta facendo crescere i capelli, allunga i suoi muscoli con lo yoga. Un anno dopo il matrimonio inizia il percorso medico per diventare donna. Riesce a farlo, tra l'altro, Ivan, grazie ai soldi della moglie, all'assicurazione della moglie, che prevede anche questo genere di intervento. Entrambi vogliono che questa cosa finisca bene. As it turns out, gender transition. La verità è che la transizione di genere non ha nulla a che vedere con i pronomi, con i bagni, tantomeno con i boa di struzzo e con i tacchi alti o con qualsiasi altra strana storia che la gente cerca di farvi bere. La transizione di genere significa letteralmente voler diventare una persona migliore. E arriva il giorno nel quale Ivan Campbell Smith cambia legalmente il suo nome, diventa Vivienne Ming. Vivienne perché era il nome che Norma avrebbe voluto dare a una figlia femmina, e Ming che è una crasi tra i due cognomi Smith e Chang. E il passo finale della transizione è quello delle pillole agli estrogeni. Così avviene tutto questo, ma avviene dopo che Norma è incinta del loro primo figlio, che hanno fatto diciamo così, col metodo classico. Poi nascerà anche una seconda bambina grazie alla fecondazione artificiale, perché precauzionalmente, insomma, c'era del seme congelato di Vivienne, preso ovviamente prima dell'operazione. You regret it all someday. E sono già 15 anni che Norma e Vivienne stanno assieme. Non solo hanno fatto due splendidi bambini, ma hanno fondato una società, la Socos. Si occupano di intelligenza artificiale applicata ai vari settori, educazione, risorse umane, ambienti di lavoro. Offrono consulenze a grandi aziende. Ci sarebbe dovuta essere anche la Amazon di Jeff Bezos, ma lei, Vivienne, ha rifiutato l'invito dopo aver saputo che l'Amazon usava il braccialetto elettronico per monitorare gli operai sul posto del lavoro. E insomma, Vivienne ha deciso che lei è troppo diversa eticamente da questo principio per poter collaborare. Lei preferisce affiancarsi a grandi società di ricerca per le risorse umane, mette a punto algoritmi per rendere il lavoro impiegatizio più creativo, per scoprire se le assunzioni vengono fatte in base a pregiudizi e discriminazioni. Eh sì, perché ovviamente da quando è diventata donna in qualche modo è emerso questo suo nervo scoperto, sapere insomma che ci sono una serie di situazioni nel mondo che sono ancora preda di luoghi comuni. Vivienne, riguardo all'intelligenza artificiale, sa essere molto lucida sui rischi che questo tipo di approccio può comportare nel delicato equilibrio che tiene in piedi questo mondo. E noi non possiamo far finta di niente. I computer, i robot, gli algoritmi sono ormai un aspetto fondamentale della nostra esistenza. Naturalmente possono aiutare l'uomo, ma potrebbero anche portarlo alla rovina. Ci sono sistemi, insomma, che ci hanno fatto fare grandi passi avanti. Pensate ai sistemi di assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer attraverso il cellulare, ai quali Vivienne ha collaborato. Gli occhiali di Google Glass, che possono essere usati per sostenere i bambini autistici. Insomma, c'è molto da fare. Lei, Vivienne, quando ha del tempo libero, per esempio, inventa delle cose più semplici, sistema per tenere sotto controllo i livelli di glucosio in un bambino affetto da diabete, oppure per prevedere gli episodi maniaci di persone affette da bipolarismo. Insomma, Vivienne oggi ha una vita piena e felice, tutto il contrario di come era prima. Del resto anche lei è tutto il contrario di quello che era prima, no? Se incontrate qualcuno che sta attraversando una transizione, qualcuno che sta affrontando la paura e il dolore profondo di una transizione, pur di contribuire al meglio in questo mondo, qualsiasi sia il genere di transizione che sta attraversando, ebbene, dovreste celebrarlo. La transizione dovrebbe essere sempre festeggiata. Transition should be a celebration. Beh, una storia particolare, e intanto ci dice che evidentemente ci si innamora a volte delle anime e non dei corpi, perché la storia della moglie di Vivienne, che in qualche modo accetta di accompagnarsi a un'anima che prima aveva un corpo maschile e poi femminile, è una storia bella, emblematica. E poi insomma c'è il percorso molto difficile di una persona che attraverso la sua vocazione a aiutare gli altri è riuscita a migliorare, a capire e a mettere a fuoco se stessa. E questo è un grande colpo d'ala. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, i miei social, i nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.